Fires, un programma di blues tradizionale contemporaneo ideato e condotto per voi in studio da Bruno Pollacci. Buonasera a tutti i miei ascoltatori, un grande abbraccio da Bruno Pollacci, siete all'ascolto di Blues Fires numero 72, puntata ricchissima con tante novità discografiche proprio fresche fresche del 2015 e qualche CD di anni passati molto interessanti. Sicuramente una puntata varia con linguaggi differenziati sempre all'interno del blues che spero renderà per voi interessante l'ascolto. Cominciamo subito con Jay Stallman che si presenta per la prima volta nei miei programmi con un CD appena uscito appunto nel 2015 intitolato Room for One More. Un CD interessante, io non conoscevo questo artista, è proprio fresca fresca la mia conoscenza di questo musicista e ho apprezzato quest'ultima sua produzione dalla quale ho selezionato per voi Ride Till I'm Satisfied. Buon ascolto quindi con Jay Stallman. I'm satisfied. I'm gonna keep on moving just as far as I can get. Don't know my destination, 'cause I still ain't been there yet. I wanna keep on riding, keep on riding. I just wanna keep on riding. I'm gonna ride until I'm satisfied. I Bene, questa era la musica di Jay Stallman. Jay Stallman si presenta a Blues Fires attraverso questo nuovo CD pubblicato quest'anno intitolato Room for One More, con questo pezzo Ride Till I'm Satisfied, una sua composizione originale nella quale, come avete sentito, si esprime al meglio sia sul piano vocale con questa sua interpretazione grintosa, forte, con questo timbro graffiante, e nello stesso tempo anche come musicista si presenta molto bene, quindi un artista equilibrato nelle sue potenzialità che sicuramente farà parlare di sé. Adesso un altro artista che ho conosciuto da poco tempo, che anche lui ha pubblicato nel 2015, proprio quest'anno, un nuovo CD intitolato Box Full of Bones, dal quale noi ci potremo ascoltare proprio il pezzo, una sua composizione originale che dà il titolo all'album, Box Full of Bones, Iron Mike Norton. Buon ascolto. We'll be right back. Bene, questa era la voce un po' dark di Iron Mike Norton, questa voce profonda, cavernosa, che ci ha proposto questa sua composizione originale, Box Full of Bones, non a caso il titolo di questo pezzo, in sintonia con la voce di questo artista, chitarrista e cantante, che vive sempre queste sue composizioni originali con una certa atmosfera noir, un'impostazione drammatica che comunque ha il suo fascino. Il CD, come ho detto prima, è una pubblicazione fresca di quest'anno, del 2015, che porta lo stesso nome del pezzo che ci siamo ascoltati, cioè Box Full of Bones, Iron Mike Norton, questo è il nome dell'artista. Adesso proseguiamo ritornando indietro qualche anno, siamo nel 2012 e John Primer pubblica questo CD intitolato Blues on Solid Ground, un CD particolare che ho ascoltato con grande interesse, con delle varietà espressive gradevolissime. Blues on a Solid Ground è anche il titolo del pezzo che ci ascolteremo, cioè quello che dà il titolo all'album. Buon ascolto quindi con John Primer e la sua band. All right, okay, let's go. Let's do this one more. Come on. All right, let's play the blues on solid ground. Yeah! One time, I got to learn something from this. Well, I'm looking all around, and I'm standing on solid ground. Well, I'm looking all around, and I'm standing on solid ground. I'm trying to let you know that the blues is back in town. Yes, I picked my way back to Chicago. That's where the blues can be found. My way back to Chicago, that's where the blues can be found. I just want everyone to know that's why I'm standing on solid ground. And it will tell you about your past. The blues will give you a feeling that you ain't never had. You know the blues will be around for a long time. That's why I'm standing on solid ground. The blues are strong. friend, it will be with you until the end. For a long, long time, the blues been around for a long time. The blues is standing, it's standing on solid ground. The blues will be around for a long time, and it's standing on solid ground. Bene, questa era la musica di John Primer. John Primer, che nel 2012 ha realizzato questo CD intitolato Blues on Solid Ground, dal quale ci siamo ascoltati questa sua composizione originale che porta lo stesso titolo del CD, in chiave traditional, un blues che ricorda la grande tradizione di questo linguaggio musicale. E a proposito di questo, in certi momenti mi fa quasi strano ascoltare degli artisti che vivono con grande passione, con grande amore, l'attaccamento a questa tradizione, anche perché proprio in questo periodo sto ascoltando le nuove produzioni discografiche che mi arrivano dall'estero e che sono pienamente riconosciute in ambito blues, vengono presentate come le ultime novità dell'ambito blues, ma che a volte mi sorprendono un po', perché inizio l'ascolto e magari il primo pezzo è così poco blues e mi dico sempre, ormai insomma sono decine di anni che io curo programmi radiofonici di jazz, soprattutto fin dagli anni 70, ma anche di blues ormai da diversi anni, e la cosa che poi in fondo è comune nelle pubblicazioni discografiche è che di solito il primo pezzo è un pezzo piuttosto importante, che serva un po' da bandiera del progetto discografico, il secondo è sempre un pochettino meno importante, il terzo ritorna ad essere tra le cose più particolari, più complete, del quale magari l'artista va più fiero, e così via. E c'è un'alternanza, solitamente quando è nelle corde, nell'espressività dell'artista, c'è un'alternanza tra pezzi slow e pezzi fast, tra pezzi veloci e pezzi lenti. Queste sono un po' le caratteristiche che di solito si avvertono nelle produzioni discografiche. Ma la cosa che a volte mi spiazza un po' è trovare dei linguaggi all'interno di un CD, e questo discorso l'ho già affrontato qualche altra volta, dei linguaggi un po' lontani, per cui magari senti un pezzo che è decisamente country, senti un pezzo che è decisamente spostato sul pop, poi ritorna magari un pezzo soul blues, poi ritorna magari un pezzo decisamente blues, poi ritorna un pezzo che magari è R&B e così via. Ci sono molte varianti. In alcuni casi c'è proprio, come dire, una sorta di mascheramento, mi viene da dire così, nel senso che i primi pezzi sono quelli che dovrebbero, come dire, convincere un grande pubblico a comprare il disco, come dire, non aver paura, non aver timore, non ti impressionare, guarda che ti do qualcosa che piace anche a te, che va bene anche per te. Poi dopo ci sono dei pezzi magari più specifici del linguaggio, dello stile del musicista, ma prima c'è qualcosa di più ampio respiro. E quindi a volte dico, vabbè, adesso arriveranno i pezzi seri, i pezzi impegnati, i pezzi che rappresentano veramente la vera anima dell'artista. E invece mi accorgo che questi pezzi che poi dovrebbero rappresentare la vera verve di quell'artista non arrivano, e continua sempre questa sorta di mescolanza di linguaggi. Credo che tutto questo possa non essere considerato, tra virgolette, negativo, nel senso che se facciamo un'analisi anche del nostro tempo, pensiamo a un tempo e al fatto che l'artista è anche un po' condizionato dal proprio tempo, è specchio del proprio tempo, la propria opera è un po' specchio del proprio tempo, di quello che si vive. Il nostro tempo è un po' all'insegna della grande varietà, della grande ampiezza. Abbiamo un panorama di scelta in tutti i settori estremamente vasto, nella musica, nella pittura, nel cinema, in qualsiasi tipo di cultura artistica. Abbiamo alle spalle un secolo incredibile come il Novecento, nel quale si è espansa ogni tipologia di linguaggio. Quindi l'artista può spaziare, ha nel proprio background culturale, nella propria memoria, una vastità di sonorità, di immagini rispetto appunto all'arte che vive, eccetera. E quindi è facile che ci sia in modo naturale, quindi spontaneo, questa ampiezza di linguaggi, e quindi l'artista non faccia altro che esprimere proprio questo piacere nel vivere la stessa ampiezza che ha ascoltato, che ha accompagnato la sua vita e che quindi nel momento in cui scrive, nel momento in cui si esprime musicalmente, ritorna fuori. Quindi niente di male, era solo per avvertire, per esprimere questa cosa che ho avvertito in questo periodo e dire che molto probabilmente è specchio dei nostri tempi. Ci sono alcuni artisti invece che rimangono più legati a una tipologia più specifica di linguaggio, eppur nella sua variante che rende interessante il lavoro, però mantengono, come dire, una sorta di zoccolo duro espressivo una volta fatta una certa scelta stilistica. Adesso, dopo la musica di John Primer, passiamo a Kate Todd, un artista che si presenta per la prima volta nei miei programmi, che ha pubblicato un CD intitolato Anywhere With You, dal quale io ho selezionato per voi questo pezzo intitolato My Country. Buon ascolto con Kate Todd. Slowing down, I say, hey, hey, this is my country. questa era la voce di Kate Todd, una cantante giovane che spazia tra il blues country e anche quella parte di folk che in America è molto forte, molto sentita e ha una grande tradizione. Kate Todd ci ha presentato My Country dal CD Anywhere With You. E dopo Kate Todd è il momento di Joan Osborne. Il CD è stato pubblicato nel 2012, è intitolato Bring It On Home, e Joan Osborne si presenterà a Blues Fires con questo pezzo intitolato Game of Love. Buon ascolto quindi con Joan Osborne. You got that certain little something that really turns me on. You can make me do right, or you can make me do wrong. If you really mean I'm the best thing you've ever found, you can prove it by being true and never playing around. But just like you can cheat on me, I can cheat on you. There's no rule that says a game of love can't be played by two. Trying to bargain upon something new. What's out there for you men is out there for us women too. Like a dog that prowls around and he licks his bone. If the shoe don't fit the size, honey, why keep trying it on? Just like you can cheat on me, I can cheat on you. There's no rule that says a game of love can't be played by two. Like the old saying, a give and take, you're never too old to learn. If you start to put your hand in fire, you know you're gonna get burned. If you wanna do one to me like I do one to you, then there's no chance that this romance could ever be broken in two. Just like you can cheat on me, I can cheat on you. There's no rule that says a game of love can't be played by two. Come on. A proposito delle varie anime del blues, delle contaminazioni, dei borders, dei linguaggi borders del blues, sicuramente anche l'R&B è un linguaggio che affascina moltissimo e che ha fatto sognare dagli anni 50-60. Sicuramente abbiamo avuto degli artisti straordinari che hanno lasciato il segno e che ancora oggi lasciano il segno in molti musicisti che si lasciano affascinare da un linguaggio così coinvolgente, vitale, caldo. E l'artista che abbiamo appena ascoltato, Joan Osborne, è una di queste che nel suo suo progetto discografico Bring It On Home, pubblicato nel 2012, ha anche molti pezzi appunto legati al rhythm and blues che riesce a interpretare con grande proprietà di linguaggio e grandi potenzialità tecniche. Game of Love era la canzone, il pezzo che ci siamo ascoltati, una sua composizione originale, Joan Osborne. Adesso facciamo proprio giusto tre passi indietro, dal 2012 andiamo al 2009 e troviamo un CD pubblicato da John Mayer intitolato Battle Studies. Il pezzo che ho selezionato per voi è intitolato Perfectly Lonely e quindi ascoltiamoci questa composizione di John Mayer. Buon ascolto. Nobody belongs to me, and this is not to say E questa era la composizione di John Mayer intitolata Perfectly Lonely, tratto dal CD Battle Studies pubblicato nel 2009. Un CD che si riallaccia a quel discorso che facevo prima. Pezzi che sono tra il blues, hanno magari un'impostazione di base del blues con una serie di accordi che ci riportano al blues, ma con un arrangiamento che si ricollega al pop, che si ricollega alle ballad del country e che quindi viene in qualche modo come dire alleggerito in quella che è la sua struttura primaria piuttosto rigida, piuttosto solida del blues e comunque, come dicevo prima, fa parte dello specchio dei linguaggi molto contaminati della quotidianità, che faccia parte del jazz, del blues, ma anche del pop, perché il pop è molto contaminato. È sicuramente un'epoca questa nelle quali i vari linguaggi, i vari generi entrano l'uno nell'altro e spesso gli artisti sono i primi a non volere essere etichettati proprio per un linguaggio specifico, ma vogliono avere la possibilità di poter spaziare secondo anche il momento, insomma, secondo l'ispirazione che li guida. Adesso, dopo John Mayer, è il momento di Kevin Healy. Kevin Healy, proprio quest'anno, ritorniamo alle pubblicazioni proprio fresche, ha realizzato questo CD intitolato Dust and Fire, dal quale noi ci potremo ascoltare Dark Wood, una sua composizione originale. Kevin Healy, buon ascolto. Down in the shadows, in the dead of night, like a brand new day. Only you can drive them away. And I came back to myself, deep in the dark, dark wood. Seems so clear. Bluebird flies high in the sky. Colors come alive in the night. And I came back to myself, deep in the dark, dark wood. I came back to myself, deep in the dark, dark. We'll be right back. e ci siamo ascoltati anche la musica di Kevin Healy, che nel 2015, quest'anno appunto, ha realizzato questo nuovo CD intitolato Dust and Fire, dal quale noi ci siamo ascoltati una sua composizione originale intitolata Dark Wood, una composizione che sicuramente è tra quelle che evidenziano le sue capacità vocali, questa sua voce forte, sferzante, ma nello stesso tempo anche calda. Nel CD ci sono bei momenti anche di fraseggi chitarristici, veramente niente male, cioè un utilizzo molto percussivo della chitarra, e la sua band vive con grande complicità queste istanze musicali del musicista Kevin Healy. Il prossimo artista è un artista italiano che ho avuto il piacere di ascoltare e di vedere live nell'ultima edizione, proprio pochi giorni fa, del Bluesacco Festival. Certo, non è il festival dei grandissimi numeri e dei grandissimi nomi internazionali, come per esempio Pistoia Blues non ha assolutamente le risorse economiche per poterlo essere, ma è un festival considerato tra quelli, tra virgolette, minori, che si sta facendo ben volere e si sta facendo prendere in seria considerazione ormai da anni. Sto parlando appunto del Bluesacco Festival, questo festival blues di Ponzacco, che ogni anno riesce con grandi sacrifici e con grande passione, con grande amore da parte dell'associazione Blues in the Bag, che è formata da stessi artisti che appunto amano e vivono compiutamente con tanta passione questa organizzazione del festival, che con tanta volontà, con tanta determinazione vogliono mantenere vivo questo appuntamento. Fortunatamente gli enti locali e qualche sponsor privato mantengono in vita questo festival, e gli organizzatori fanno di tutto per proporre anche artisti locali che magari hanno poche occasioni per arrivare al grande pubblico e che in questo caso si mettono veramente in evidenza. Altri artisti che invece sono già in vista, sono già nel mirino degli appassionati, perché hanno opportunità per partecipare a festival, a manifestazioni di grande respiro. Quest'anno è stata una bella annata, non che le altre lo siano state meno, ma insomma io sono nel qui e nell'ora e parlo molto bene di questa edizione, che ho vissuto con grande piacere, con grande interesse. Il programma era vario, pur all'interno chiaramente del blues, ma con delle varianti per ricordarci, a proposito del discorso che ho fatto prima, di quante anime, di quante contaminazioni è fatto anche il blues e quante strade può prendere con delle piccole o grandi varianti. All'interno della programmazione c'era anche lo show, la performance di Emiliano degli Innocenti. Emiliano degli Innocenti si è presentato in trio e mi ha convinto al punto che ho chiesto di poter promuovere la sua musica nel mio programma. Ed oggi questo è possibile attraverso il suo CD, realizzato a nome di Emi Blues, questo suo nome d'arte. Emiliano degli Innocenti ha realizzato questo bel CD, un CD sicuramente molto ricco di special guest, oltre la formazione di base, e che quindi è anche molto vario nelle sue sonorità e per le sue varietà. Il gruppo di base è formato da Emiliano degli Innocenti alla voce e alla chitarra, Valentina Bartoli, che è una giovanissima organista Hammond, che io ho avuto il piacere di conoscere 3-4 anni fa nelle serate di selezione proprio per il Blues Festival di Ponzacco, il Bluesacco, quando io ero in giuria nelle prime edizioni del festival. E Valentina Bartoli mi ha sempre sorpreso per essere una organista veramente di grande capacità, di grande potenzialità, che io ho sempre visto come un astro nascente, sicuramente tra i più interessanti del panorama non solo regionale ma anche nazionale. Quindi Valentina Bartoli all'organo, Cristiano Coppi alla batteria e Stefano Girone al basso. In questo CD però, come ho detto prima, ci sono molti ospiti, ci sono artisti nazionali e internazionali che danno il loro contributo. Uno per tutti, Guitar Crusher, che tra l'altro è un artista che potremo ascoltare proprio con Emiliano degli Innocenti al prossimo festival di Seravezza, al Festival Blues di Seravezza, ma lo potremo ascoltare anche a Pistoia nel festival stesso che organizza Emiliano degli Innocenti proprio in questi periodi, sempre molto ricchi di musica, non solo qui in Toscana. Emiliano degli Innocenti stasera lo potremo ascoltare con questo pezzo intitolato Got My Mojo Working. Quindi buon ascolto. Some red-eyed tips, I'm keeping them all alive. Just work on you. Bene, ci siamo ascoltati la musica del bluesman toscano Emiliano degli Innocenti, Emi Blues, il CD è intitolato Fat End Blues e il gruppo è formato da ottimi musicisti, li ricordavo prima, Valentina Bartoli, questa giovane organista veramente tra i musicisti più interessanti, emergenti del momento, Cristiano Coppi alla batteria, Stefano Girone al basso, ma velocemente ricordo che in questo CD sono presenti anche Guitar Crusher, Ben Perkoff, Manolo Nardi, Emiliano Tozzi, Leonardo Galigani, Keki Andrea, Davide Malito, Carlo Romagnoli, Gori Barlov, Valentina Giusti, Olivia Rovai e Serena Frosini, che si alternano nei vari pezzi come ospiti molto interessanti ad impreziosire questo progetto discografico. Il CD di Emiliano degli Innocenti, quindi la presenza di un bluesman italiano in questa puntata, mi dà l'opportunità ancora una volta di ricordare a tutti i gruppi blues italiani, gruppi cantanti, chitarristi, blues che hanno almeno una pubblicazione al loro attivo, che se sono interessati possono inviarmi le loro produzioni discografiche, proprio perché io sono molto interessato a promuovere anche il blues italiano, così come faccio nei miei programmi di jazz, che do larghissimo spazio al buon jazz italiano. In questo programma di blues vorrei poter offrire molto più spazio al blues italiano. So che abbiamo delle formazioni molto interessanti, al pari a volte di quelle più celebrate all'estero. È un blues sempre più in crescendo quello che abbiamo in Italia, con delle belle personalità, e quindi soltanto che è molto difficile trovare CD, è molto difficile poter avere una diffusione di questo materiale. Quindi tutti gli interessati a essere promossi nel mio programma possono contattarmi sul sito di Anima Jazz, animajazz.eu. È possibile trovare la mail. Ho due profili come Bruno Pollacci su Facebook, e in più esiste anche la pagina e il gruppo dei miei tre programmi, che sono Anima Jazz, Blues Fires e il Dubi Dubi Du, il festival radiofonico delle voci jazz italiane. Quindi è possibilissimo in molti modi contattarmi e poter procedere con la presentazione dei vostri CD. Detto questo, andiamo ad ascoltarci l'ultimo pezzo della serata. A proporcelo è il gruppo di Chris Barras, Chris Barras Band, che dal CD Chris Barras Band, pubblicato nel 2015, proprio quest'anno, noi ci ascolteremo The Rise. Buon ascolto. We'll be right back. Bene, questo era l'infuocato blues rock di Chris Barras, Chris Barras Band, che dal CD che porta il suo nome, Chris Barras Band, pubblicato proprio quest'anno, ci siamo ascoltati la composizione originale intitolata The Rise. E con questo si conclude la puntata numero 72 di Blues Fires. L'appuntamento è come sempre a martedì prossimo. Ciao ciao a tutti da Bruno Pollacci e da Blues Fires.